trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Proxy Bar, benvenuti a Daniela Apollonio. Grazie. Stefano Vizzella. Grazie, ciao a tutti. E il professor Stefano Epifani. Buongiorno a tutti. Un gradito ritorno, professor Epifani, che è docente di comunicazione interattiva presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione all'Università La Sapienza di Roma. È bello perché il professore mi faceva dei segni di consenso, perché non è facile descrivere e ricordarsi esattamente la sua qualifica. Oggi parliamo di un argomento per certi versi spinoso, per altri intrigante, che è quello del ruolo degli analisti di information technology, queste grandi multinazionali come Gartner, come Forrester, come IDC. E lo spunto sono le previsioni che nello scorso mese di dicembre Gartner formulò sui grandi trend dell'information technology per il 2007. Bene, io credo per la prima volta si fa una specie di confronto in questa trasmissione. Sono passati 6 mesi, vediamo quanto ci stanno, tra virgolette, azzeccando, quanto stanno indovinando queste previsioni. Lo faremo in modo anche un po' critico. Devo dire che abbiamo provato a coinvolgere Gartner attraverso intervento di un analista, non è stato possibile, però naturalmente noi teniamo aperta una porta, eventualmente torneremo per avere un contraddittorio totale su questo tema, magari nelle prossime trasmissioni. Intanto direi che possiamo cominciare. Each year, the Gartner Research Group releases a set of 10 key predictions for the future. Podtech's Clark Boyd checked in with Gartner analyst Daryl Plummer about the group's IT predictions for the year ahead. Do you think 2007 will be an even bigger year for blogs? And we're looking at TechnoRowdy numbers of 56 million active weblogs in October 06. And we're seeing that people are getting smarter about how they use blogs. You know, marketers are beginning to use them to market, and communities that are out there like MySpace and Facebook. That is correct. Now, Rob, another thing you mentioned was green tech. Is this moving from a buzzword to best practice for tech products and companies? More of a differentiator right now, and I think you could argue best practice, but if you've got two equal vendors and one vendor is green and the other vendor is not, there is an increasing trend to favor the vendor that is green. That's incorrect. Try again. Well, one of the really interesting findings that I saw on the list of the top 10 was that by the end of 2007, 75% of enterprises will be infected with undetected, financially motivated, targeted malware. That's incorrect. Try again. You guys are saying that Vista will be the last major release of Microsoft Windows. I'm here on the phone with Rob Enderle, Principal Analyst with the Enderle Group based in San Jose. Welcome to the podcast, Rob. Thanks for having me. So you've just recently published an article called 2007 Trends from Rob Enderle, and it's subtitled The Beginning of the End for the Traditional PC. That is correct. Back to your list, you're saying that Internet TV is going to supersede traditional TV? Yes, it's going to supersede cable and analog and satellite. Now, the one last one that I want to hit on is you also predict that by 2010, 60% of worldwide cellular users will be trackable via an emerging Follow Me Internet. That's incorrect. Try again. And finally, security. You're predicting that a democratically controlled Congress, if we end up having one, yes, will be more focused on privacy. Much more focused on privacy. You know, we had with the Republicans, the focus was capturing terrorists, and so you had things like the Patriot Act. That is correct. Allora, abbiamo un po' scherzato, forse questa volta non c'è stato nessun approccio scientifico nel giudicare corrette o sbagliate queste cose. Pietoso questo inserto. Ma no, anche perché molti sono dei numeri che sono, si possono interpretare in modo soggettivo, e poi comunque siamo a metà del 2007. Adesso cercheremo di essere un po' più rigorosi, anche perché abbiamo un osservatore attento come il professor Epifani, al quale intanto vorrei chiedere qual è esattamente il ruolo di un analista di IT. Cioè, che cosa fanno questi signori e soprattutto come funziona il modello di business, cioè queste aziende di che cosa campano, cioè come guadagnano? Beh, ovviamente le aziende che si occupano di fare analisi nel settore dell'IT vivono delle commesse che vengono loro erogate da aziende che lavorano nel settore dell'IT, che chiedono loro come andrà il mercato. La risposta di solito è: il vostro mercato andrà bene, se no è difficile poi essere pagate. Ma beh, ora, al di là di questo che ovviamente è uno scherzo, ma neanche del tutto forse, il modello di business è un modello di business abbastanza articolato, perché è molto difficile gestire il processo relazionale che c'è tra un'azienda IT e un analista che sostanzialmente deve in qualche modo indicare delle direzioni per il futuro ad aziende che di queste direzioni poi devono fare linee strategiche. Di conseguenza, senz'altro, il lavoro degli analisti IT, soprattutto nel momento in cui gli analisti IT diventano riconosciuti e le grandi società come Gartner, come IDC, come Forrester sono riconosciute, diventa un lavoro estremamente delicato, un lavoro chiave nella vita e nel... Ma io nella mia ingenuità, no? Ho sempre creduto che gli analisti IT vendessero fondamentalmente la loro capacità di individuare la verità e di poi comunicarla a chi commissiona la ricerca. Cioè, che in sostanza la mia idea è che si tratti di una ricerca applicata, come se fossero... E poi, però, abbiamo detto, ci sono degli intrecci un po' a rischio. Cioè, intanto il fatto che un'azienda commissiona un lavoro e ovviamente non è detto che lo faccia per avere un'informazione reale su cui poi prendere decisioni. E poi c'è anche il fatto che la stampa a sua volta pubblica questi risultati, e sulla stampa gli inserzionisti, la stampa specializzata e gli inserzionisti sono spesso aziende di ICT, no? Cioè, non ci sono un po' troppi punti di contatto, no? Senz'altro i punti di contatto sono moltissimi. C'è da dire che il lavoro degli analisti IT, tu hai usato, ci possiamo dare del tu dopo tante volte sì, che ci vediamo in radio e tanti anni ti ringrazio. Tu hai usato un termine, deve fare delle previsioni sul futuro. Sì, sostanzialmente l'analista IT cosa fa? Identifica dei dati, correla questi dati per tirar fuori delle informazioni, ma già l'atto di correlare i dati è un atto soggettivo, di conseguenza dà comunque il suo punto di vista su un trend, dà il suo punto di vista sull'andamento di alcuni dati. A questo punto è chiaro che il punto di vista dell'analista IT varierà in funzione di alcuni elementi contingenti. Quali sono questi elementi? La notiziabilità, il tipo di committente. E la discrezionalità dell'analista in questo caso è altissima, anche perché di fatto quando l'analista comincia ad avere una posizione talmente autoritaria sul mercato e autorevole rispetto all'andamento del mercato stesso da rischiare di condizionarlo, di fatto si entra in pieno in quel meccanismo che è quello della predizione che si autoavvera. Se IDC dice che il mercato dei cellulari salirà del 30% nei prossimi 3 anni, è probabile che la borsa, nel momento in cui IDC dice questo, ha un andamento positivo semplicemente perché IDC l'ha detto. A questo punto è una predizione o è un influenzare il mercato? Vabbè, quindi da quello che tu stai dicendo, i motivi per i quali vengono fatte queste analisi sono motivi prettamente speculativi, non certo per fare delle linee strategiche aziendali. Ma io non so quanta sia l'affidamento che fanno i top manager di grandi aziende sulle analisi degli analisti. Hanno spesso altre linee che vanno ben al di là dell'analisi dell'analista, che spesso può servire esclusivamente per supportare una decisione già presa. Difficilmente una grande azienda si basa completamente sull'analisi della Gartner, dell'IDC o della Forrester, semplicemente perché quella stessa analisi è anche a disposizione dei competitor. Certo, però in teoria un'analisi fatta dagli analisti IT riguarda una base più ampia rispetto alle proprie conoscenze all'interno della stessa azienda. Se io voglio fare un'analisi su quello che è il mercato attuale, mi rivolgo a loro per avere dei dati obiettivamente sì, più... Sì, il problema è che gli analisti fanno due tipi di analisi. Uh-huh. Fanno un'analisi di trend e un'analisi di mercato. Per quanto riguarda l'analisi di trend, cercano di definire quali saranno gli sviluppi delle abitudini, dei trend d'acquisto, delle tecnologie nei prossimi X anni. e di solito la buttano là sui 5, 6, 7 anni. Io ho avuto modo di parlare tempo fa con Jim Clark, un nome noto ai vecchi della rete, il quale mi disse: guarda Stefano, qualsiasi previsione nel nostro mondo venga fatta a più di 6 mesi è pura fantasia. Io sono molto convinto che Jim Clark avesse ragione, non fosse altro perché ha fatto tante aziende e molte gli sono andate male, e questo in qualche modo. Va bene, comunque è stato opportuno inquadrare la tematica anche per avere un approccio critico e commentare questi dati. Deve essere un approccio sanamente critico, nel senso che sapere come sono concepiti questi dati aiuta anche a leggerli. Certo. Sono indicazioni, non sono previsioni, c'è una bella differenza, insomma. E vediamole queste indicazioni, partendo da quelle che così saltano un po' più all'occhio. Ce ne sono alcune che sembrano un po', devo dire, io fatto anche un po' il giornalista informatico in passato, sembrano fatte apposta per avere un bel titolo di giornale. Per esempio questa secondo cui Vista sarà l'ultima importante release di Microsoft Windows. Questa chiaramente è una previsione fatta nel 2006 per il 2007. E quindi diciamo che anche qui si può, cioè non c'è un criterio scientifico, no? Per stabilire quale sarà l'ultima release, però sicuramente è uno statement molto importante. Tu Stefano pensi veramente che Windows sia arrivata in qualche modo al capolinea, almeno così come lo conosciamo? Assolutamente no, semplicemente perché i sistemi operativi in questo momento sono di fronte a un grandissimo cambiamento, ma il cambiamento è un cambiamento che si porta dietro delle tare ereditarie che non possono essere spazzate via con la rapidità di qualche mese o qualche anno, no? È impensabile che Vista rappresenti l'ultimo sistema operativo Microsoft, a meno che Microsoft non fallisca, ma non mi risulta che ci sia. Io penso invece che questa cosa possa essere possibile se consideriamo che un sistema operativo, da quando viene rilasciato per la prima volta, quando riesce ad ottenere una stabilità, ci vogliono 5-6 anni. Quindi secondo me probabilmente da adesso ai prossimi 4 anni Vista, che al momento è completamente inaffidabile, avrà una release, una service pack 1, una service pack 2, dopodiché fra 4-5 anni magari sono cambiati i chip, i computer, magari useremo altro hardware, esatto, quindi probabilmente il sistema operativo cambierà completamente. E quindi Microsoft ne farà un altro, a meno che Microsoft non esca dal mercato. No, è no, possibile. No, Microsoft, cioè da quello che ho capito dalla notizia è che Windows Vista è l'ultima release di Windows, non che lui esca dal mercato, che magari tirerà fuori un nuovo sistema operativo completamente diverso. Ecco, vedete com'è soggettivo. C'era Stefano che voleva commentare invece questo dato sui blog, questa previsione di Gartner sulla crescita dei blog. Sì, perché quanto argomento quanto mai attuale, appunto c'è questa analisi che prevede per la prima metà del 2007 il picco massimo di espansione del fenomeno blogging. Anche qui è da riflettere sul fatto che il dato probabilmente messo così è un po' troppo grezzo, nel senso che il blog viene quasi ipostatizzato come un'entità autosufficiente, mentre invece sappiamo che ci sono varie tipologie di blog che andrebbero sviscerate più nel dettaglio. E qual è la tua opinione a questo proposito? Ma ancora una volta, dati vaghi in qualche modo impongono risposte vaghe. Dire che si arriverà ai 100 milioni di blog quando francamente non credo sia possibile, semplicemente lasciamo stare il mercato mondiale, ma calcolare quanti siano i blog presenti in Italia mi sembra un buon modo per dire che l'acqua fredda è tendenzialmente fresca o l'acqua calda scotta, insomma. Sì, c'è un momento di crescita, il fenomeno è evidente, non serve Gartner che sia in una fase di massima espansione. Se sono 100, 120 o 110 non credo che sia, non soltanto non è in qualche modo definibile, ma forse non è neanche utile saperlo. Ragionando poi sulle previsioni, c'è anche una piccola nota a margine da fare, perché appunto noi ce la possiamo prendere con Gartner o comunque con lo sporco lavoro che fanno gli analisti del settore IT, però se pensiamo comunque alla missione di colpa fatta recentemente da Tim Berners-Lee, che per chi non lo sapesse è quello che viene riconosciuto come il vero padre del World Wide Web e come il guru del web semantico, il quale ha ammesso che le sue previsioni sul web sono fallaci rispetto alla forma, all'evoluzione del web contemporaneo. C'è anche tutta la questione sulla prevaricazione delle ontologie commerciali sulle ontologie sociali, e quindi in qualche modo il messaggio di Berners-Lee è quello di vivere, se vogliamo, alla giornata il web, senza andare per forza incontro alle varie diciture, siamo nel 2.0, nel perpetual beta. Quindi a questo punto diventa un po' tutto diventa relativo, messa così. Beh, questo apre il grande iato che esiste tra gli analisti e i guru, perché se dobbiamo ragionare delle previsioni dei guru, a questo punto si apre un baratro più che una finestra, perché tanto per citarne alcuni, hai citato Tim Berners-Lee, ma potremmo parlare di Bill Gates, che qualche anno fa con una sua iniziativa pensava che internet fosse un elemento transitorio che potesse essere incapsulato dentro Microsoft Network. Qualcun altro aveva previsto per il 2000 la fine della carta negli uffici, si chiamava soltanto Nicolas Negroponte, uno dei maggiori guru del settore. Qualcun altro ancora, e qui devo dire che c'è stata una grande coerenza tra analisti IT e guru, aveva detto che nel 2000 avremmo vissuto col millennium bug una sorta di apocalisse informatica. Tutte quante previsioni fatte... È stato un Eldorado per alcune società che si occupano di sicurezza logica. Non a caso stavo dicendo, tutte quante previsioni fatte senz'altro con la tranquillità di chi fa una previsione talmente in là nel tempo da fare a tempo a correggerla n volte, ma soprattutto fatte con la conseguenza che le società che sviluppano sistemi, le società che realizzano applicazioni, le società che su questo si muovono, poi sviluppano dei business plan che sono tutt'altro che fantasiosi. E allora a questo punto vorrei lanciare un tema che so esserti caro, Stefano, che è quello della corporate social responsibility, vale a dire la responsabilità sociale delle aziende, che secondo le previsioni di Gartner del 2006 è diventata una priorità per le aziende rispetto persino al fatto di adeguarsi all'evoluzione normativa reale. Perché per un'azienda è più in alto in agenda il fatto di essere socialmente responsabili rispetto alla compliance, rispetto alle leggi vigenti? Mi piacerebbe poter dire per una responsabilità delle aziende nei confronti di ciò che lo circonda, ma ritengo che sia semplicemente perché in questo momento parlare di CSR piace ai consumatori, piace agli stakeholder, piace un po' a tutti, di conseguenza di fatto è molto più economico parlare e fare per certi versi CSR piuttosto che non investire in marketing, ma tutto sommato basta farla. Beh, diciamo è anche più soggettivo, nel senso che rispettare la legge, come dire, è oggettivo, c'è un testo, no, che prescrive determinate disposizioni, un'azienda deve adeguarsi, mentre la linea, no, la linea rossa che demarca l'azienda socialmente responsabile da quella irresponsabile è ampiamente manovrabile, no, a seconda dell'investimento in marketing che si fa. Per esempio la Shell a suo tempo riuscì a produrre una straordinaria immagine di azienda socialmente responsabile e poi subì un colpo di coda quando si capì che dietro c'era una grande operazione di marketing. Nel mondo dell'ICT non so questo come possa funzionare. Beh, il tema della responsabilità sociale nel settore delle aziende ICT è un tema che è assolutamente poco trattato, quasi per nulla studiato, ma di assoluta rilevanza. Vi faccio un esempio, tanto per darvi un dato, tenete presente che i semplici computer, per essere costruiti, richiedono una quantità di energia 10 volte superiore a un qualsiasi elettrodomestico e richiedono dei costi di dismissione che sono 8 volte superiori a quelli di un elettrodomestico, il che vuol dire che se Indesit è attenta alla CSR, dovrebbe esserlo 10 volte di più, perché ha un sistema di costi di produzione della sua filiera e di smaltimento, ma questo non è più un problema di Dell, mi verrebbe da dire, che sono ingenti rispetto a quelli affrontati da altri settori. Allora, visto che hai citato la produzione di personal computer, proprio di PC units, mi viene da fare un salto indietro e leggere delle previsioni che Gartner fece nel 2004 circa i principali vendor di personal computer. Nel 2004 Gartner disse che tre dei principali, dei primi 10 produttori di personal computer sarebbero usciti dal mercato. E questo è, e questa è una previsione che poi è stata ampiamente verificata, perché appunto abbiamo adesso tutti i numeri per dire se ci hanno azzeccato oppure no. Per certi versi ci hanno azzeccato. Hanno indovinato, per esempio, che IBM avrebbe venduto la sua divisione che produceva PC alla Lenovo. Però per esempio in realtà è stata ci sono altri numeri meno convincenti. Questo mi verrebbe da dire che IBM ha di fatto è uscita alla fine del 2004, quando la previsione era stata fatta verso il secondo semestre 2004, quindi insomma non serviva proprio una sfera di cristallo per immaginarlo che sarebbe successo. E infatti, quando si tratta di numeri, in realtà loro, Gartner, aveva previsto una diminuzione, no, della crescita al 5.7%, in realtà che era in realtà l'anno prima era l'11.3, in realtà è scesa solo al 10.5 con un errore dell'84%. C'è qualcuno che va a fare le pulci di queste previsioni e rilascia interviste? C'è qualche giornalista che... Per quale motivo il giornalista dovrebbe mettersi a litigare con un potenziale inserzionista? Beh, questa è una domanda molto maliziosa, Stefano, che riprende il tema del cortocircuito di prima. Torniamo alle previsioni del 2006. Questa storia dei cellulari tracciabili, secondo te? Gartner dice che tutta la popolazione dei cellulari nel mondo entro il 2007 sarà tracciabile con un sistema che si potrà consultare via internet, in modo che ciascuno possa sapere dove si trova il possessore di un cellulare. Ma secondo te... Ma la privacy? Ecco, la privacy. Sentivo prima nel commento, nell'inserto un po', diciamo, bizzarro con cui abbiamo introdotto la trasmissione, qualcuno diceva adesso c'è un congresso democratico, i democratici aboliranno il Patriot Act, ci sarà molta più attenzione per la privacy, quindi un progetto di questo tipo, francamente, non mi sembra che possa vedere la luce almeno entro il 2007. Beh, io ricordo quando nel 1998 si diceva che l'OMTS avrebbe sfondato nel 2001, poi nel 99, 2002, 2000, 2003 e così via. Io non dubito del fatto che arriveremo a un momento in cui sarà possibile georeferenziare gli utenti di cellulare con una buona approssimazione e su vasta scala. Dubito fortemente che questo avvenga nei tempi che sono detti, ma d'altro canto questi elementi, questi numeri servono anche di stimolo al mercato, perché se io dico a un'azienda che entro il 2010 esisterà questo tipo di richiesta, l'azienda si muove per orientare la sua linea di produzione per essere in qualche modo coerente con questo tipo di richiesta. Se gli dico che nel 2040 questa cosa si avvererà, non interessa niente a nessuno. Ovviamente, però scusami, toglimi una curiosità, Stefano. Attualmente i cellulari sono comunque tracciati perché si sa a quale cella sono agganciati, quindi qualunque tipo di cellulare noi possiamo sapere dov'è. Manca questo servizio di mappatura, ma queste informazioni ce l'hanno gli operatori, ma ce l'ha la polizia, ce l'hanno sì, le persone. Intanto gli operatori ce le hanno, la polizia può recuperarle, ma farlo su un cellulare, su 10 cellulari, su alcune centinaia di migliaia di cellulari, lasciamo stare le faccende italiote, è possibile. Farlo sulla totalità dei dispositivi porrebbe qualche problema di tipo tecnico, e questo è un punto. Il secondo punto è relativo alla privacy. Questo è il primo punto, infatti la mia obiezione è stata, ma la privacy... Stefano che voleva credere intervenire. No, io credo che in termini di abuso a quello che è il diritto alla privacy, Google faccia molto peggio di questa previsione catastrofica. Il problema è che gli analisti ancora non sembrano ragionare molto su questo aspetto, perché credo che i dati con cui Google amministra, gestisce le identità degli utenti siano quanto mai opachi. Secondo me più che gli analisti è il congresso che non se ne rende conto, nel senso che non viene percepita dalla popolazione un'invasione della privacy attraverso un sistema come Google, in tutte le sue ramificazioni, mentre viene percepito molto di più l'invasività, diciamo, di una informazione location based, come appunto può essere la cella, no, in cui il possessore di un cellulare si trova. Sì, io non sono così convinto che la popolazione sia tanto estranea rispetto all'invadenza di Google. Penso invece che l'invadenza di Google possa essere utile anche a Gartner, che da qualche parte alcuni dati deve prenderli, a IDC che deve strutturare le sue ricerche. Insomma, Google questi dati in qualche modo li utilizza e li porta a reddito. Stiamo ancora scorrendo questa lista di indicazioni, previsioni. Devo dire che nel comunicato stampa di Gartner si parla di key predictions, quindi non vedo perché, Stefano, dobbiamo parlare eufemisticamente di indicazioni. Questi, l'impegno di chiamarle previsioni, l'impegno di autoproclamarsi delle sibille informatiche, se lo sono preso, ed è per quello che noi oggi gli stiamo facendo un po' le pulci. Allora, nel 2008, secondo Gartner, almeno entro il 2008, circa il 50% di tutti i data center nel mondo non avranno abbastanza energia e capacità di refrigerazione per supportare, diciamo così, l'aumento della densità, no? dei server e degli apparati che dovranno ospitare. Questo però è un tema che io francamente sento periodicamente ormai da parecchi anni. Beh sì, sono ormai anni e anni che si immagina il fatto che internet collassi, la larghezza di banda non basti. Mi ricordo quando, non credo fosse Gartner, ma altri analisti IT parlavano del fatto che si sarebbe arrivati al collasso, alla saturazione della banda, perché le applicazioni diventavano sempre più multimediali. Questo ha portato i grandi carrier a sviluppare terabyte di cavi transoceanici che in questo momento sono inutilizzati. Certo. Beh, però questo fatto, la sottodomanda che vorrei farti è: perché questa è ancora una notizia dopo che è stata sparata per tanti anni? Così come, cioè, ogni anno arriva, che so, il ministro per l'innovazione, va al forum PA e dice: questo sarà l'anno dell'e-government. Questa è una cosa che io sento da 20 anni. E non mi stupisce il fatto che non parta mai, perché ci sono tantissime difficoltà. Mi stupisce il fatto che i giornali continuino a fare titoli su queste cose. Ma tutti gli anni si dice che c'è l'emergenza caldo, ma porca miseria, l'estate viene tutti gli anni. Sì, bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, evitare di esporsi nelle ore più sono calde. Sono notizie che fanno notizia, sono notiziabili, sono elementi di notiziabilità, sono cose che comunque ai giornali piace stampare, la gente piace leggere. Comunque non sono così sbagliate, nel senso i data center potrebbero veramente avere crisi di spazio, di energia, perché anche se l'hardware viene migliorato ogni anno, ogni sei mesi, ci sono hard disk più potenti, cose più grandi, la quantità di informazioni archiviate e la necessità di archiviare informazioni per la polizia postale, per i controlli, per il backup che qualcuno chiede e paga per avere, secondo me non è detto che non sia possibile come previsione. Questa volta sono buona. Ma vedo, no? Giustamente, ma tu, Daniela, prendi anche le parti di chi fa queste previsioni. No, io prendo le parti tecniche, molto, attenzione. Sì, cioè, sei molto documentata. Però quello che ti dico è, ma non sarà mica che questi allarmi nascono dal fatto che la new economy non si fida della old economy? Cioè c'è questa interferenza, per esempio, tra il mondo della sicurezza fisica e della sicurezza logica. Di solito chi si occupa di sicurezza logica alza le braccia di fronte al problema di un'intrusione fisica nei sistemi. E quindi, siccome questi due mondi non si parlano molto spesso e molto volentieri, me ne rendo conto per esempio quando ci sono questi grandi IT security forum, sembra che quando sale sul palco un relatore che parla di sicurezza fisica sembra ignorare tutto quello che è stato detto prima e viceversa. Come mai c'è questa sfiducia della new economy verso la old economy? Lo chiedi a me, professore? No, io sono allergico ai due termini, quindi non, in questo caso non prendo parte alla disputa del vecchio contro il nuovo, perché penso che ci sia una forte linea di continuità per la quale semplicemente competenze diverse non entrano in contatto, ma non è questione di vecchio e di nuovo. D'altro canto io prendo occasione dell'osservazione di Daniela, sono previsioni che si possono fare senz'altro, ma questo spiega ancora una volta il modello di business degli analisti IT, perché se fanno 10 previsioni l'anno, ne sbagliano 3, 2 sono indeterminate, ecco, e 5 le azzeccano, di fatto è come lanciare una monetina, 50 e 50. Certo. Stefano, questa per esempio che sto leggendo adesso, entro il 2011 le aziende sprecheranno 100 miliardi di dollari comprando le sbagliate tecnologie di rete, gli sbagliati servizi di rete. Io posso anche essere d'accordo, ma che cosa vuol dire sprecare? Questo è un concetto del tutto soggettivo. Come si fa a verificare la puntualità, la correttezza di una previsione espressa in questo modo? Di fatto nell'ambito della singola azienda sarebbe anche possibile, perché calcolo gli switching cost da una tecnologia all'altra, verifico cosa ho speso per una tecnologia, verifico quello che ho speso per l'altra e capisco quanto ho buttato. Mi chiedo come si faccia a calcolarlo su scala globale. È una di quelle previsioni che senz'altro indica un trend, per questo è corretta, è interessante, cioè ci stanno dicendo che il rinnovo delle tecnologie è talmente veloce, è talmente rapido che le aziende sono indotte a scelte sbagliate che portano poi risultati che incidono fortemente sul bilancio, e questo è un dato fondamentale. Che poi ancora una volta siano 100, 90 o 80, questo secondo me è poco importante, ma soprattutto è poco calcolabile. Continuiamo con un po' di sano catastrofismo. Altra previsione di Gartner è quella di una maxi infezione super specializzata di malicious software, il cosiddetto malware, che secondo Gartner non darà scampo addirittura al 75% delle aziende. Anche qui c'è da ragionare se questa è ancora una notizia, perché allarmi del genere sono presenti in rete sin dai suoi esordi, possiamo dire. Sono presenti in rete e rappresentano un trend in qualche modo consolidato. Per una volta mi verrebbe da dire che forse la stima è addirittura ottimistica. D'altro canto tenete presente che sono moltissime le violazioni alla sicurezza che non vengono denunciate dalle aziende semplicemente perché non conviene farlo. Va bene, proviamo a trarre qualche conclusione da questa analisi più o meno puntuale che abbiamo fatto. Del resto siamo a metà del 2007, vedremo poi alla fine del 2007 se qualcuno si cimenterà in un esercizio più completo, più strutturato e forse anche un po' più rigoroso. Noi abbiamo anche introdotto, no? Questa è una trasmissione che cerca anche di essere leggera, qualche elemento folcloristico, no? della vita di questo grande circo, no? Che è uscito dalla bolla speculativa, però portandosi dietro ancora delle scorie, non dico delle inefficienze, ma appunto dei cortocircuiti tra vari elementi, per esempio questo fatto delle industry relations, cioè il fatto che esistano all'interno delle agenzie di PR degli account che cercano, vabbè, d'accordo, di far uscire dei buoni articoli sui loro clienti, ma addirittura di influenzare gli analisti di IT. negli Stati Uniti è addirittura istituzionalizzata la figura del personaggio delle PR che avvicina l'analista di IDC, di Forrester, e inizia una conversazione davanti a un martini e poi però a un certo punto tira fuori una specie di backgrounder con... Beh, ma è un, come dire, uno dei punti di aggancio di un percorso ciclico. L'analista IT influenza le strategie aziendali derivano da indicazioni che vengono dal mercato ma vengono in qualche modo influenzate dagli analisti IT, che determinano l'andamento del mercato, che determinano il fallimento e il successo, il mercato che determina il fallimento e il successo delle previsioni, che fanno sostanzialmente fare fatturato un po' a tutti. Quindi sostanzialmente io chiuderei con due considerazioni. La prima è questa: le previsioni senz'altro indicano un trend, senz'altro indicano un andamento, prenderle per oro colato sarebbe un errore madornale. E la seconda è una citazione di Bernard Marie, che è un economista francese, che sulle previsioni dice che se l'economia è la scienza del mercato, le previsioni non servono a niente. Se l'economia è una scienza che predice il futuro, allora il più grande economista è l'equivalente, diciamo, francese di Solange. Se l'economia è la scienza che sa parlare di fiducia, allora il più grande economista è Freud. Se l'economia è trasparenza, i più grandi economisti sono i giudici, i poliziotti e la guardia di finanza. Se l'economia è una religione, il più grande economista è Giovanni Paolo II. Ogni attività sociale ha un'utilità, anche i parassiti hanno un'utilità. Va bene, allora ti invito, Stefano, a rimanere comunque con noi in trasmissione per commentare magari anche l'intervista al guru di turno della nostra prossima rubrica. Radio Imago. The radio with vision. Allora, il guru di oggi della rubrica Guru Meditation è Roberta Enni. Roberta Enni, che è un importante dirigente della RAI, che al momento in cui si pose davanti al microfono per parlare come di sviluppi del DVBH, del digitale terrestre, aveva in realtà una responsabilità specifica in RAI su questi temi, sull'evoluzione della televisione, di queste nuove piattaforme. Adesso però nel frattempo è diventata anche vice direttore di RAI 2, quindi, come dire, è diventata anche più importante, più autorevole in qualche modo l'intervista che stiamo per mandare in onda. Magari poi la commentiamo insieme. Guru Meditation. Guru Meditation. Guru Meditation. Dunque, nel suo libro Tessarolo individua però due importanti limitazioni relative proprio all'RSS. Da un lato, la necessità di aggiungere le funzionalità di guida programmi elettronica, di EPG, e l'altro poi elemento mancante è la funzionalità di accesso condizionato, che lui considera, per esempio, tramite un PIN, no? Che lui considera chiave per la distribuzione di contenuti multimediali, per esempio premium. Ecco, lei crede che queste limitazioni saranno superate all'interno, diciamo, dell'RSS, oppure che sarà necessario sviluppare uno standard ad hoc proprio per queste funzionalità? Allora, come dicevo, il broadcaster in realtà detesta l'EPG, e il broadcaster detesta l'EPG perché l'EPG supera il telecomando, e tutto sommato diciamo questo non va così bene. Il broadcaster è convinto in realtà che le persone vadano a un appuntamento con lui, e quindi pensare che non accendono il televisore semplicemente per guardarlo ma per andare a cercare un contenuto specifico, questo non è proprio nella filosofia del broadcaster, tant'è che se c'è una cosa che è poco curata è proprio l'informazione in tempo reale, l'informazione corretta in tempo reale della programmazione. È un'esperienza che abbiamo fatto tutti. Questo certamente in parte è dovuto al fatto che i contenuti broadcast sono per gran parte ancora live, e quindi con durate non prevedibili. Però è proprio vero che non c'è questa attenzione, cioè se voi immaginate che alle guide cartacee di programmi il palinsesto si dà con 15 giorni di anticipo, potete immaginare che la controprogrammazione modifica, può modificare anche sostanzialmente la programmazione in 15 giorni, così come può essere modificata da eventi diciamo non prevedibili, no? da incidenti magari di un certo tipo. È chiaro che è l'attualità che in genere... L'EPG per gli RSS, io credo che l'EPG sarà superata da motori di ricerca video. Magari motori, con i video taggati, no? Con etichette oppure location based. Motori di ricerca che io credo saranno sempre più importanti se saranno condivisi dal basso. Perché noi abbiamo visto che la parola non ci basta per individuare un contenuto o una qualunque cosa, perché la nostra lingua è una lingua molto ricca. Sì, magari una parola no, ma molte parole sì. Sì, però sulla scelta dei contenuti io credo che il fatto di poter condividere con una comunità molto ampia il giudizio su un contenuto poi sia importante. Ma perché attenzione, io cerco contenuti quasi sempre per intrattenermi. Sul concetto di intrattenimento il passaparola è molto importante. Forse lo stiamo sottovalutando. Forse lo stiamo sottovalutando. Mia personale riflessione su un tema che mi sta molto a cuore, e cioè la fruizione in condizioni di mobilità, la fruizione video in condizioni di mobilità. Tempo fa noi podcaster, perché io faccio il podcaster tra virgolette di mestiere nella mia seconda vita, siamo stati oggetto di una email della Apple che a un certo punto ci ha detto: guardate, se avete dei podcast video raddoppiate la risoluzione perché stiamo per lanciare l'Apple TV e la gente guarderà i video grazie a questo set-top box che si mette sopra il televisore. E in questo modo i podcast video cominciano seriamente ad essere una concorrenza per il prime time, cioè per la televisione che normalmente vedete, e quindi avrete molto più pubblico e così via. Implicitamente però la Apple cosa sta dicendo? Che sui lettori mobili con video la gente non vedrà i podcast video, fondamentalmente perché in condizioni di mobilità il video non è comodo da vedere, mentre il podcast audio continuerà. E questo per me, che sono un podcaster audio, è tutto sommato una buona notizia. Però questo mi fa pensare per esempio agli investimenti che sta facendo la Rai per dispositivi mobili, per il video su dispositivi mobili come il DVB-H. Quali sono le prospettive? Io devo dire che al DVB-H credo poco. Questo lo dice anche Tessarolo, è abbastanza a chiare lettere. Io ho visto qualche volta magari qualche patito della Formula 1 sotto un ombrellone estrarre un telefonino, allora, e vedere la partenza. Però no, al di là va di benissimo, va benissimo, nel senso che ci deve essere una motivazione di eccezionalità. Io mi domando, un mercato si può sostenere sulle motivazioni di eccezionalità? Per quanto noi queste motivazioni di eccezionalità cerchiamo di metterle tutte insieme, possono reggere un mercato? Questa è la mia domanda. Posso fare un'altra domanda? Secondo lei perché Sky nella sua offerta di contenuti a pagamento a un certo punto ha infilato 40 canali radio senza pubblicità di musica, quando li poteva mandare sul DVB-H e fare guerra ai podcast, iTunes, alla Apple? Appunto. Perché non mandare contenuti audio in diretta sul DVB-H? Allora, io credo che in mobilità vinca la parola più che il video. La musica anche. Sì, la parola che quando è ritmata è musica. Sì. Vengo da, sai, ragazza degli anni 70, dai cantautori. Ah, quindi la parola, certo, va bene, insomma. E quindi credo veramente che credo di più, guardate, credo di più nell'intrattenimento da videogioco nei momenti di attesa. Credo molto meno nel discorso video, perché tra l'altro comunque prima che ci saranno contenuti video realmente fruibili, no? Gli snack di cui tutti andiamo a parlare, ce ne vorrà. E credo anche che la dimensione di quel video avrebbe bisogno di una impostazione narrativa molto diversa da quella della televisione, perché anche qui dobbiamo finirla di pensare che si tratta solo di fare un resize per fare nuovi media, Ecco, allora, il che significa dire che se voglio fare un prodotto realmente fruibile su DVB-H, io devo approcciarlo con un processo produttivo assolutamente diverso da quello televisivo, quindi un altro processo produttivo. Io in tanti anni non ho ancora scoperto come si fa televisione con pochi soldi, televisione di successo con pochi soldi. Appena lo scopro mi metto a fare anche tutto il resto. Può darsi che la mia sia miopia, io credo, ripeto, poco, soprattutto credo poco a questa preoccupazione di fruizione lineare. Allora, se non abbiamo capito che ci può essere un errore di investimenti in tutta questa ottica, ma io parlo anche della rete, cioè io preferirei che gli investimenti fossero fatti, come ho detto anche prima, per garantire accesso e larga banda a tutti, piuttosto che preoccuparsi di reggere lo streaming, detto francamente, perché forse il cosiddetto multicasting, non c'è un modo più efficace del broadcasting per farlo ad oggi. Allora forse per questo io dico, mettiamo insieme le piattaforme. Io credo che quello che ancora non abbiamo capito, che le varie piattaforme che stiamo vedendo, in realtà poi la vera convergenza è proprio la l'ibridizzazione di queste piattaforme. Per questo che nella cosa che vi ho raccontato, io vi ho detto, io ho messo insieme il digitale terrestre e l'IP, perché lavorare nei media mi ha insegnato che non c'è mai un media che soccombe rispetto a un altro, ma quasi sempre si ibridizzano. Allora cerchiamo di fare con efficienza le cose, usiamo i mezzi migliori adatti per un certo tipo di fruizione, non cerchiamo invece di piegare mezzi adattissimi a un altro tipo di fruizione per fargli fare cose che non sono nella loro natura. A ciascuno il proprio mestiere. A ciascuno il proprio mestiere. Usiamo, io dico che la vera sfida sarà a tutti i livelli domani saper usare nel modo giusto i talenti. Allora, anche per le piattaforme, ognuno di loro ha dei talenti e dei punti di debolezza. Evitiamo di unire i punti di debolezza, cerchiamo di unire i talenti se è possibile. Va bene, grazie del suo tempo. Ciao. Allora, ci sono delle novità rispetto a questa intervista, non è solo la nuova nomina di Roberta Emmia, vice direttore di Rai 2, ma anche il fatto che la Rai, e questo è un annuncio che ho scoperto grazie al blog di Tommaso Tessarolo, sempre aggiornatissimo, la Rai ha abbandonato alla fine il DVB-H e investirà in un nuovo sistema di fruizione mobile di contenuti multimediali in diretta che si chiama TDMB. Io ho provato a documentarmi un po', pare che sia un sistema più aperto, ma c'è ancora da discutere su questo. Inizierà una sperimentazione della Rai, ad agosto sarà coperta tutta l'area di Roma e ci sarà un bouquet di canali video e anche audio, quindi questo da un lato mi rende molto, molto felice. E il punto è che non esistono ancora, credo, i telefonini, per esempio, non esistono i dispositivi mobili per ricevere questo segnale. Tu, Stefano, cosa prevedi? Non vorrei fare il ruolo dell'analista IT, assolutamente di dare una risposta. Quello che posso dire è che ho l'impressione che Rai non abbia mai creduto tanto nel DVB-H. Non fosse altro perché ha poco spazio di manovra sul DVB-H, è intermediata da operatori telefonici, da produttori di terminali, di conseguenza non avendo spazio di manovra opta per altre soluzioni. C'è da chiedersi quanto queste soluzioni saranno supportate da quelli che poi il DVB-H o tecnologie analoghe devono portarlo in giro, cioè i produttori di device. E questo è il tema centrale. Penso che su questo la sfida non si combatta sulla base dei standard, ma dei format. Va bene, noi ringraziamo il professor Epifani per essere rimasto con noi fino alla fine di questa lunga puntata di Proxy Bar. Speriamo di averlo ancora in studio con noi, perché ha delle competenze, direi, a 360 gradi sull'IT. A questo punto, Daniela, noi abbiamo in realtà qualche novità da dire sulle attività di Radio Imago su Second Life. Abbiamo pochi secondi, puoi darci qualche anticipazione? Dovete assolutamente venire a trovarci in Second Life. Abbiamo la nostra piccola sede, abbiamo animazioni che facciamo durante eventi, in alcune serate particolari. E questa sera dovrebbe esserci uno speciale a Mediterraneo. C'è il concerto di Ania. Ecco, vedi ragazzi come sono più aggiornati di me. Il concerto di Ania. Ecco perché vogliamo sempre Stefano in trasmissione. Avremo il concerto nella nostra land e successivamente anche un'intervista dedicata a noi. Benissimo, allora io ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.